Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Il bilancio del peggior incidente nella storia industriale del Bangladesh supera ormai 650 morti schiacciati dal crollo dell'edificio di 8 piani che ospitava alcuni laboratori tessili. Quando il Rana Plaza nella periferia di Dhaka è crollato come un castello di carte a causa delle vibrazioni prodotte da alcuni generatori di corrente, nei locali al suo interno erano al lavoro oltre 3.000 operai. Ora l'Unione Europea sta riflettendo sull'idea di imporre delle sanzioni commerciali al Bangladesh per spingere il governo di Dhaka ad aumentare gli standard di sicurezza. T-shirt 5 euro? No grazie. La tragedia di Sawar è emblematica di un problema che l'opinione pubblica europea dovrebbe porsi, quello dei costi umani dell'industria dei vestiti a basso costo. Così il portavoce del commissario al commercio, John Clancy, secondo il quale l'Europa dovrebbe imporre delle sanzioni al Bangladesh per quello che è accaduto alla Rana Plaza a Sawar nella regione di Dhaka. We all as consumers have responsibility, a kind of a corporate social responsibility. We want the cheapest items, well, perhaps increasingly we need to recognize. Tutti noi consumatori, ha detto, abbiamo una responsabilità, vogliamo abiti a prezzi bassi, ma dovremmo anche pretendere che chi produce questi capi abbia una paga adeguata e una situazione lavorativa degna. Non era evidentemente così per i quasi 400 operai rimasti schiacciati dalle macerie del palazzo di 8 piani, pieno di crepe, costruito su un terreno paludoso che ospitava la fabbrica dove si producevano capi di abbigliamento per grandi marchi occidentali, anche italiani. Circa il 60% degli abiti prodotti in Bangladesh finisce nei negozi occidentali. 3,6 milioni di persone lavorano nell'industria tessile. Alcuni, secondo Oxfam, prendono meno di 30 euro al mese. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E noi torniamo in Europa. Una volta al mese, per 4 giorni, migliaia di documenti di lavoro vengono portati da Bruxelles alla città francese di Strasburgo, dove il Parlamento europeo si riunisce per la sessione plenaria. Le sedi istituzionali europee sono scritte nei trattati fondativi, ma negli ultimi anni sono sempre più numerose le proteste nei confronti di un meccanismo che in tanti denunciano come un vero e proprio circo itinerante. Il Parlamento è stato creato nel 62 a Strasburgo, città simbolo del conflitto e poi dunque della pacificazione franco-tedesca. Poi però i lavori sono stati spostati progressivamente su Bruxelles fino ad arrivare ai soli 4 giorni attuali di trasferta da Bruxelles a Strasburgo. Campione della campagna anti-Strasburgo è ora il parlamentare europeo scozzese Edward McMillan. E non è solo. Dal 2007 la petizione che chiede di mettere fine al pendolarismo ha raccolto 1.700.000 firme e l'adesione di 3 parlamentari su 4. Contrari all'idea di uno spostamento definitivo, o meglio di un abbandono di Strasburgo, sono soprattutto i francesi. Cédric Virgilio, alsaziano, basato a Bruxelles, dice che non è solo una questione di bandiere. Strasbourg is really, I think, the first step. Strasburgo, dice, è il primo passo per avvicinare l'Europa ai cittadini, perché l'Europa non è un posto solo, ma una struttura che deve essere aperta. Dobbiamo essere ovunque, e dunque anche a Strasburgo, dice, per dimostrare che siamo vicini ai cittadini europei. La popolarità dell'euro è ai minimi storici in Scandinavia. Destinati a confluire nella moneta unica dal Trattato di Maastricht, gli svedesi guardano con grande freddezza a quel momento. Secondo un sondaggio pubblicato oggi dall'Università di Göteborg, gli svedesi favorevoli all'euro sono ormai meno del 9%. L'Unione Europea ha deciso, una volta entrata nell'UE, il Prosecco croato, quello con la K in fondo, non potrà più essere venduto con quel nome all'interno appunto dello spazio UE. La questione riguarda evidentemente l'Italia e il nostro Prosecco, le cui origini antiche si perdono tra vigne e biblioteche. I croati, d'altra parte, sostengono che il loro Prosecco, un vino passito di colore ambrato che viene dal sud della Dalmazia, non ha nulla a che spartire con quello giallo paglierino friulano goriziano. Ma tant'è, una vicenda di nomi e di soldi più che di vini, che Zagavria ora accetta di chiudere, spiegando ai produttori nazionali che si tratta di un sacrificio fatto per favorire l'ingresso all'Unione, dunque l'accesso al mercato unico. Sono Federico Taddia e oggi vi voglio invitare a visitare la nuova sede degli archivi storici dell'Unione Europea a Firenze, che verrà inaugurata ufficialmente e aperta al pubblico venerdì 10 maggio in concomitanza con il Festival dell'Europa. Oltre 5 chilometri di documenti che raccontano la memoria dell'Unione saranno quindi custoditi e consultabili presso Villa Salviati, una dimora del 400 sulle colline fiorentine, sede ora di un archivio all'avanguardia con sofisticati sistemi di conservazione, di controllo dell'umidità e di digitalizzazione dei documenti delle istituzioni europee e di oltre 150 fondi privati per complessivi 170.000 dossier. Tutte le informazioni sull'archivio si trovano all'indirizzo www.eui.eu. E naturalmente le ritrovate su radio24.it. Con questo è tutto, Fabio Cantadori in regia, Gigi Donelli al microfono, l'appuntamento con Europa 24 domani alle 13.15. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.